mai. Sono mai. Sono mai. Mai dire mai. T'ho inoltrato una richiesta d'amore, sì. Perché quella d'amicizia non aveva più valore. Avevo voglia di sentire ancora in bocca quel sapore, di innamorarmi ancora, sì, di chi ancora segue il cuore. Dovevo aspettare il tempo giusto per amare. A volte questo sentimento, sì, deve solo maturare, sì. E le farfalle nello stomaco, che non ti fanno mangiare. Il campanello d'allarme, sei pronta per volare. E non mi vergogno, no, no, di essermi svegliato ed aver abbandonato il sogno per la donna che prenderà questo brutto carattere. Facendone un punto di forza io mostro da battere, sì. Con gli occhi che si fondono per guardare oltre. C'è un futuro dietro la maggior parte delle porte, che se spalanchi più delle volte nascondono tesori. Dammi una notte, oh, nessuno mai m'ha guardato, yeah, come hai fatto tu, nessuno mai m'ha baciato, ah, come hai fatto tu, nessuno mai m'ha toccato, come hai fatto tu, vale di più, vale di più loro, nessuno mai m'ha guardato, yeah, come hai fatto tu, nessuno mai m'ha baciato, ah, come hai fatto tu, nessuno mai m'ha toccato, come hai fatto tu, vale di più, vale di più loro. Di testa prima che nel cuore, sì. Le tue parole sono sempre state pugnalate all'amore. Io non ti cercavo perché t'avevo già trovata. Tu meritavi il meglio, ecco, ti accontentata. E renderò sto posto un mondo migliore. Il mio è già sicuro se vive nel tuo cuore. Perché sei il motivo per restare sveglio. Ma quale folle desiderio, tu sei molto meglio. Sei il destino che ci ha messo lo zampino. Ora che il domani è più colorato d'Arlecchino, sei il sole che splende e ti fa ricominciare. È iniziata un'altra splendida giornata di mare. E ti porto con me come fa il vento con un aquilone. Tieniti stretta, la paura è un'illusione che puoi combattere con la ragione. Hai ragione tu, tutto è cambiato, ho detto la parola amore. Nessuno mai ha guardato, yeah, come hai fatto tu. Nessuno mai m'ha baciato, ah, come hai fatto tu. Nessuno mai m'ha toccato, come hai fatto tu. Vale di più, vale di più loro. Nessuno mai m'ha guardato, yeah, come hai fatto tu. Nessuno mai m'ha baciato, ah, come hai fatto tu. Nessuno mai m'ha toccato, come hai fatto tu.